Serving our Lord's buonasera a tutti, e sulle note di questa band laziale, che sono una band appunto della zona di Roma, sono i Threat of Riot e siamo all'ascolto di The Dismagnetics, che è un programma che ogni giovedì va in diretta radiofonica qui dai studi di Radio Onde Furlane. Non abbiamo presentato subito all'inizio per un po' questioni così interne di questo programma, questioni di, insomma, di ritardi eccetera eccetera. Comunque siamo partiti con la solita sigla di questa trasmissione, che è il brano Retribution dei Behind Enemy Lines. Poi abbiamo ascoltato due brani della band canadese, se non erro completamente al femminile, ovvero i Ballast, comunque la voce femminile, no scusate, una band con la cantante, con questa cantante canadese, che poi ha fatto parte anche di altri band importanti di questa zona del Canada. E comunque ricordo che questa trasmissione viene condotta dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Udine e Trieste. Bene, continuiamo con questa band, i Threat of Riot, e buon ascolto. Anzi, volevo ricordare che oggi sarà la trasmissione praticamente totalmente musicale. We'll be right back. Bene, questi erano i laziali Truth of Riot, e ora invece passiamo ad un'altra band italiana, esattamente di Ascoli Piceno, da questo split che è uscito un paio di anni fa. E loro sono gli Affluente, e lo split era stato eseguito assieme ad una band siciliana che sono i Feccia Tricolore. Ma noi comunque ci ascoltiamo un paio di brani appunto di questi ascolani Affluente. tuoi vincoli. Esercita la tua forza di volontà. Analizza i tuoi vincoli. Questi erano gli Affluente, band di Ascoli Piceno, da questo loro album Split assieme ai Feccia Tricolore, che è una band siciliana che forse ascolteremo comunque il lato dei Feccia Tricolore dopo, ma non è detto. Comunque è un album Split uscito nel 2014. Ora invece andiamo all'ascolto di una band più volte passata in questa trasmissione. Loro sono di Imperia, sono i CGB, ovvero Crime Gang Band, e questo è il loro album datato 2006 che si intitola Stanze. E comunque volevo ricordare che è una band ormai anche questa storica del panorama punk hardcore, dato che è una band che si è formata a metà anni 80 ed è tuttora esistente, anzi a ogni tot anni ha sempre sfornato un album. Comunque andiamo all'ascolto di questi Crime Gang Band, ovvero conosciuti come CGB. riassumiamo un po' questa band di Imperia e i CGB, come già detto prima, Crime Bang Bang, sono di Imperia. Questo è il loro album Stanze, che è datato 2006, e ci siamo ascoltati insomma un bel po' di brani, come facciamo spesso con quasi tutte le band, e anche ascolteremo adesso un paio di brani per questa band che ora andiamo ad ascoltare, che è pugliese, esattamente dell'area di Taranto. È una band che si è formata meno di 10 anni fa, esattamente nel 2013, e dall'album loro, il primo album uscito nel 2016, ci ascoltiamo appunto un paio di brani. Loro sono i Sud Disorder. Paesaggio classico, il mare, la riva deserta, gli olivi, il sole, le cicale, la pace, la sonnolenza, tutto rimasto immobile e intatto dai tempi della Magna Grecia. Ma ora state attenti, lo metteranno a ferro e a fuoco. Si aggirano gli orribili dinosauri di metallo. Via gli olivi, via le vecchie casupole, via le cicale e l'antico incanto mediterraneo, via! Ma perché hanno devastato così? Faccio sempre le stesse domande, la solita storia. Sono sempre perché la concorrenza per notarci di me, della mia vita che corre lontano in specchi riflessi dai soliti eccessi. Adesso so che non sarà tardi mai, sono sicuro che anche tu capirai come è difficile contro doverte col sole che brucia, che brucia. Resisterò sulla mia strada, il cielo terrà in parole. Resisterò tutte le volte che dovrò volare, tutte le volte che saprò sognare. Bene, sfumiamo questo brano dei Sud Disorder, band di Taranto, da questo loro album datato 2016, album d'esordio, e che altro dire, band molto valida, che comunque è molto, diciamo, che calca i palchi del punk hardcore, della scena anarcho-punk nazionale ma anche oltre. E passiamo invece ad un'altra band molto importante. Se questa dei Sud Disorder è una band recente, invece andiamo all'ascolto di questa band slovena, esattamente di Lubiana, molto molto attiva, anche se recentemente, per questioni così, diciamo, di lavoro, dei componenti della band si sono un po' dislocati in varie situazioni europee. Loro sono gli Aktivna Propaganda, e noi ci ascoltiamo anche per loro un paio di brani che sono usciti in un CD compilation che raccoglie tutte le loro uscite precedenti, comunque di rado, in prossimità di festività o insomma nei periodi estivi di ferie la band si ricompone, fa qualche concerto benefit e rimane comunque una delle band più valide del punk hardcore sloveno. E ci ascoltiamo appunto un po' di brani, cioè un po', credo anche per loro voleranno via 3-4 brani perché sono insomma molto molto veloci e comunque di composizione ridotta come tempistica. Comunque Aktivna Propaganda. We'll be right back. Ecco, sfumiamo questa band e teniamo comunque in sottofondo. Loro sono gli sloveni Aktivna Propaganda, band che si era formata credo nel 2000 e poi ha fatto uscire nel 2006 questo CD in cui raccoglie le loro quattro precedenti uscite. Poi la band ha iniziato un po' così a fare concerti un po' di rado e qualche uscita discografica, band che teoricamente è tuttora esistente, anche se, come detto prima nella presentazione di questa band, i componenti purtroppo vivono per questioni lavorative al di fuori della Slovenia e comunque in alcune parti dell'Europa e ogni tanto hanno occasione di ritrovarsi e approfittare per fare qualche concerto benefit e così, insomma, con grande entusiasmo del pubblico. E ora invece andiamo all'ascolto di questa band storica inglese che si è formata proprio alla fine degli anni 70, anzi diciamo dall'80. Loro sono i Subhumans, hanno fatto ovviamente agli loro esordi dei primi anni 80 un sacco di dischi, di album, poi si erano riformati nel 2007 e hanno fatto uscire questo album che noi ci andiamo ad ascoltare. Si sono riformati poco prima del 2007, circa 2005 credo, per dirla tutta sono pure approdati in quel di Udine, quando appunto nel storico CSA di Via Volturno, che hanno fatto un concerto, adesso mi sfugge se era nel 2005-2006, comunque al di là di questo, in quel periodo hanno poi registrato, dopo quel tour, questo album che si chiama Internal Riot e ci ascoltiamo un paio di brani per questi Subhumans. turn to terror when all else fails. The prison's not full of rich white males. We're more than scared by the men at the top. We're talking to each other and we're pissed off. Pissed off with the thorns and the barrens. The innocent people in far-off land will die for the freedom, revenge of a few. And say we have no choice in what we must do. The empty reasons about defending the years are just never ending. Streets of blood to justify complete control. Global laws are mine. A re-election when the power. Bene, abbiamo ascoltato ben tre brani da questo album dei Subhumans, band storica del panorama punk, anarcho-punk inglese, band che si è formata nel 79 ufficialmente, ma poi insomma le prime uscite discografiche risalgono all'80-81 e come questo album, Internal Riot, è un album datato 2007, dopo insomma così un vuoto che hanno avuto nel corso degli anni 90, e si erano riformati nei primi anni 2000, appunto, che fecero uno storico tour europeo dove poi nacque appunto questo album, storico tour europeo tra cui toccò pure la data, una data qui a Udine, esattamente al CSA di Via Volturno. Bene, ora invece andiamo all'ascolto di un brano, ma probabilmente ne ascolteremo altri di seguito. Sono tutti, cioè, allora la band, dico subito, la band che ascolteremo sono gli Agar the Womb, band degli anni 80, però quello che volevo dire è che questo brano che noi andiamo ora ad ascoltare è estrapolato da una compilation che è uscita in più volumi, cioè negli anni scorsi, diciamo dopo gli anni 2000, in cui venivano raccolte molte band, diciamo a livello sconosciuto, che hanno fatto proprio delle piccole uscite discografiche o solamente in cassetta. E qui insomma adesso io non so quanti volumi sono usciti, ma almeno 4 sicuri, e più o meno sono una media di oltre 20 brani. Un brano è, ogni brano è una band diversa. E insomma sono, vabbè, cosa interessante, perché sono andati a ripescare, a raccogliere un sacco di band che forse sarebbero rimaste nel vuoto, diciamo sconosciute per lo più a quasi tutti. Questa compilation si intitolano Anti Society Anarcho Punk Compilation. E come ho detto, noi ora ci ascoltiamo gli Agar the Womb, dopo seguirebbero gli Stalag 17 o Stalag 17 e poi gli Oipolloi. Comunque vediamo come siamo con i tempi e con tutto quello che siamo qui e che abbiamo preparato. Ricordo sempre che siamo in diretta radiofonica qui dai studi di Radio Onde Furlane da Udine, Via Volturno, il programma Zardins Magnetics, ogni giovedì diretta proprio radiofonica dalle ore 20 alle ore 21:30. Andiamo con gli Agar the Womb. Come on. Bene, un po' sfumando questo brano che sono gli, come ho detto prima, sono i Stalag 17, da questa compilation Anti-Society, Anarcho-Punk Compilation, questo è il volume 3. E prima ci siamo ascoltati gli Agar the Worm, che devo dire, magari chissà quanti di voi che stanno ascoltando questa trasmissione, immagino, a parte non voglio quantificare quante persone sono che ascoltano, però ci sarà una percentuale altissima che secondo me non era difficile capire che il brano di prima era in effetti una cover di quella band disco che erano i Boniem, però ovviamente le so tutte, ma quella lì dei Boniem non me la ricordo, vabbè dai, era per dire, comunque chi se ne frega, avranno avuto i loro motivi, perché il brano è che questi Agar the Womb hanno fatto, che era In Acid to Kill, sicuramente non era il titolo di quella dei Boniem, vabbè, hanno rifatto, avranno cambiato il testo, comunque avranno avuto la loro il buon motivo per ispirarsi a quel brano lì. Va bene, quindi siamo giunti al termine di questa trasmissione che è Zardins Magnetics. Vi ricordo che viene condotto dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Udine e Trieste, o comunque del Friuli, Venezia Giulia, se vogliamo così chiamare. Vi ricordo i nostri contatti, se volete scriverci con la posta elettronica, basta inviare tutto a liberetutti@autistiche.org, ripeto, liberetutti@autistiche.org, oppure potete scrivere in forma cartacea ad Associazione Senza Sbarre, Casella Postale 129, Trieste 34121. Torno a ripetere anche questo per scriverci in forma cartacea, intestare ad Associazione Senza Sbarre, Casella Postale 129, Trieste Centro 34121. Inoltre potete riascoltare questa trasmissione, più ovviamente anche tutte le scorse puntate, al blog zardinsmagneticsradio.noblogs.org. Ripeto, zardinsmagneticsradio.noblogs.org. Bene, questo è tutto. Oggi c'è stata così una puntata solo a mente musicale, senza interventi. Ovviamente non abbiamo così messo musica anarcho-punk così a caso, o diciamo a random, come sempre. Non abbiamo fatto un qualcosa di specifico su qualche argomento. Ce n'erano quanti ne volevamo, anche in questo periodo che ahimè si continua a fare questa festa, cosiddetta festa di Pasqua, è risorto, non è mai morto, è sempre tra noi, è viva, siamo tutti bravi, domani vado veloce a lavarmi il mio SUV, bello luccicante, che lo faccio vedere al Duomo quando andrò a messa, mi leggerò il mio bel quotidiano locale, sarò bravo, con martedì magari mi preoccuperò di quello che accade nel mondo, ah sì, vabbè, c'è qualche guerra, ma cosa me ne frega, intanto magari io sono il datore di qualche bella fabbrica dove sfrutto i poveretti che poi me li ritroverò a lavarmi la mia bella macchina, e avanti così. E poi potevamo anche farci una bella puntata anche a livello così specista, animalista, che domani devo muovermi, andare al grande magazzino, supermercato, a comprarmi la bella carne, prendere le legna per accendere il mio bel focherello, buttare su tutte le mie belle bisteccone e avanti così. Poi martedì continuerò a prendermi il mio solito quotidiano e leggermi qualche bella notizia, ah sì, c'è qualche guerra, e così, che bello. E non so che altro brano passarvi, perché mi sa che stiamo per sforare, non so cos'altro dire. Questa è la diretta di Zardins Magnetics e ciao a tutti, al prossimo giovedì.